che è sta roba? Mamma, una pianta che parla. Lo sapevo, non dovevo esagerare con quella robaccia. Vabbè. Mosè. Guarda che mi chiamerò, eh. Oh. Mosè. Oh. Ah, scusa. Togliti i calzari. Poiché la terra che calchi è santa. Ok, io mi tolgo le scarpe. Sono da ginnastica. Ho udito le grida del mio popolo. Ora lo so. Dimmi, cosa vuoi chiedermi? Allora, signore, ci stiamo tutti chiedendo perché il costo del petrolio al barile è dimezzato, ma il costo della benzina continua ad aumentare? Tu... Ah, sì. Ecco. Torna dal mio popolo e di loro che i fondi di caffè sono un ottimo fertilizzante per le piante. Ma non c'entra niente. Appunto. Vabbè, ammesso che io torni laggiù e dica questa cazzata, mi chiederanno sicuramente il tuo nome. Io che cosa devo rispondere? Io sono colui che sono. Tu dirai, io sono. Signore, non mi hanno chiesto la coniugazione dei verbi, eh. Vogliono sapere come ti chiami. Vogliono sapere un po' troppe cose, mi pare. Vabbè. In realtà avremmo un altro paio di domandine da fare. Per esempio, com'è che i membri della BCE non si possono processare? Io sono colui che sono. Tu dirai... Io sono, sì, vabbè, ho capito il concetto. Ma vorremmo anche sapere com'è che i nostri politici guadagnano 15.000 euro al mese in tempo di crisi. I fondi di caffè sono un ottimo fertilizzante per le piante. Sì, vabbè, buonanotte, lasciamo stare. Ora va. Sì, vado. Il tuo popolo ti aspetta. Sì. E rimettiti i calzari, che qui non si respira più. Lo sapevo. Vabbè, ma cosa dirò a loro? Che parole devo usare? Tu apri la bocca e dagli fiato. Tanto loro sono abituati a credere a tutte le minchiate che sentono. Ora va, t'ho detto. Se avrai bisogno di qualsiasi cosa, io sarò sempre con te. Grazie. Bene, approfitterei. Ci sarebbero un caffè e una brioche da pagare al bar qui sotto il monte. Non è che puoi anticiparmi qualcosina? Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venute dall'est, diceva anche in fondo, era uguale, credevano a un altro diverso da te, e non mi hanno fatto del male, credevano a un altro diverso da te. E non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. Con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore.

Era il testamento di Tito e noi ringraziamo Fabrizio De André per averci lasciato anche questa bella canzone. Oh, ma benvenuti a Radio Ro. Come state, piccoli squinternati che non siete altro? È tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Qui era che vi parla con il prezioso aiuto del regista. Io questa puntata sulla Bibbia proprio. È Dolomino del caffè che passa di qua ogni tanto. Ehi, gaffi gaffi cappucce brioche, gaffi gaffi. Gaffi, gaffi, cappucce, brioche, gaffi, gaffi. Che ho signora, vuole caffè, c'è per paro caffè. Ih, che bello sto piccirito. Ah, vuole brescina, eh. Allora, signora, caffè, la brescina, sono... brescina sto piccirito, fanno 2,50€, va. Vabbè, non ce l'ha, vabbè, 2€, signora, me può dare 2€, ma arrangio lo stesso, non si preoccupi. Lo scondrino. Vabbè. Gaffi gaffi cappucce brioche, gaffi gaffi. Ringrazio Dio che ci aiuterà per tutta la puntata. Infatti gli ho chiesto cortesemente, insomma, se voleva partecipare. Lui all'inizio, insomma, ha fatto un po' di storia, ha detto no, c'ho da fare, devo creare un paio di mondi qua e là. E poi vabbè, io ho detto ascolta, se scendi ti presto il DVD di Rocky Horror Picture Show, ho sputato un topo e niente, ha accettato, è venuto direttamente. Allora, vi ricordo sempre che potete trovare tutte le puntate di Radio Ro sul blog liberopensieroberto.blogspot.com. E che se avete richieste strampalate da farmi, lettere insomma un po' strampalate, potete mandare una mail all'indirizzo liberopensieroberto@libero.it scrivendo nell'oggetto che si tratta di una lettera per l'angolo di Ro. Io direi che con i convenevoli, che non so cosa sono, abbiamo finito. Possiamo anche... Amore, devo dirti una cosa. No! Mi hai tradito! No! No, amore, devo dirti che... No! Sei sposato! No! No, amore. Amore, ascolta, volevo solo dirti che... No! No, ti crescono i peli nel naso! Ma porca, vuoi stare zitto o no? Ah, scusa. Io volevo solo dirti che... ho deciso di sposarti. Amore... amore? Yuhu! Yuhu! Life to live. vorrei copiare l'ironica intuizione di Joel ed X sull'analisi della creazione. Anche se sulla genesi della Bibbia c'è da farsi veramente quattro risate, ma vorrei provare ad immaginare come vivevano quei due. Sì, sì, sapete bene di chi parlo. Sono i primi due conviventi della storia, Adamo ed Eva. Noi altri, nel bene e nel male, abbiamo tutti avuto un esempio di coppia. Insomma, i genitori, chi i nonni, chi gli zii, non so, i racconti d'amore, i film, le canzoni. Insomma, un'idea ce la siamo fatta, come dicevo, nel bene e nel male, su cosa voglio dire stare in coppia. Quei due invece, ma vi rendete conto dello shock emotivo? Diciamo che non voglio credere alla panzanata secondo cui la donna nasce dopo l'uomo e soprattutto dalla sua costola. Mi piace di più la prima versione che dà la Bibbia, quella che, parentesi che apro al momento, quella che difficilmente leggono in chiesa, e cioè secondo la quale Dio li crea insieme e a sua immagine e dà loro il potere di comandare su tutta la terra. I due nascono, magari non si guardano in faccia ed ancora non hanno consapevolezza di sé, e infatti dovevano ancora essere inventati gli specchi, e prendono alla parola il comando di Dio, che dice soggiogatela, rivolgendosi, parlando della terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra, pensando entrambi che fra gli esseri viventi da dominare siano compresi loro stessi. Così nasce la prima forma di isteria di coppia, secondo cui l'uno vuole il sopravvento sull'altro, rivendicando un comando divino. Wey, sta zitta, è stato Dio a dirmi di dominare anche su di te. Ah sì? E quando ha parlato di animali che strisciano e uccelli, secondo te a che si riferiva? La convivenza doveva essere terribile. Poveretti, c'è da capirli. Non avevano modelli a cui ispirarsi, come abbiamo detto. Anche perché il loro creatore, due secondi dopo la loro nascita, sparì nel nulla. E da allora parlò solo ogni tanto e con un megafono, ma sempre nascondendosi dietro a qualche nuvola. Adamo è convinto che il mondo sia tutto suo e se ne sta a cazzeggiare per il giardino dell'Eden, io già me lo vedo, tutto fiero del disordine che mette in giro. Eva, invece, capisce che loro due sono della stessa specie ed è giusto che stiano insieme. Le donne sono sempre state un po' più sveglie. Egli sta attaccata parlandogli di tutto. Il primo litigio nacque così. Adamo, rispondimi quando ti parlo. Oh, ma cosa vuoi? Non vedi che ho da fare? Ma se non fai niente tutto il giorno? A te sembra così, ma in realtà io sto pensando. Ma che pensi? Dai, vieni qua, c'è un sacco di roba da fare. Dobbiamo dare i nomi agli animali. Dobbiamo sistemare un po' il nostro giardino. Dobbiamo scegliere i vestiti da mettere per stasera. Lo sai che abbiamo ospiti. Vieni Dio a vedere come stiamo andando. Ma che palle. Ma non si può rimandare la cena. Dai, non abbiamo mai un po' di intimità. Tu pensi sempre agli ospiti, a far trovare tutto pulito, a sistemare le cose. Ma perché non ti rilassi un po'? Io sono rilassata. I toni si fanno più aspri. Cosa vorresti dire, Che sono nervosa? Dillo, dillo! La verità è che a te non importa niente di me. Te ne stai sempre lì per i fatti tuoi. E non mi parli mai, mai un complimento, mai una carezza. Ah, è così. E i fiori che ti ho regalato ieri sera cosa sono, E poi tu vuoi sempre parlare. Ma di che cavolo vuoi parlare, Qua è sempre tutto uguale. Le cose che ci siamo dette ieri vanno bene anche per oggi. Ma perché perdere tempo con queste cazzate? Adamo, smettila di fare il cafone. Cerca di crescere ogni tanto. Ma non posso crederci. Abbiamo l'intero mondo a disposizione e tu devi starmi col fiato sul collo. Ma gira un po', trovati un passatempo. Possibile che non riesci a goderti niente senza prima rompere le balle a me? Ah sì? E va bene, io giro, mi troverò un passatempo. Ma non ti darò più quella cosina per un mese intero. E qui Adamo cambia improvvisamente tono e diventa subito più gentile. Dai, cara. Da notare l'aggettivo caro usato per la prima volta nella storia con l'unico intento di farsela dare. Cerca di capirmi, io ho bisogno di spaziare con la mente, di osservare la natura, di scrivere poesie. Non lo faccio per male o per ferire te. Io sono così, ma nulla toglie al nostro amore. Eva, spiazzata e stordita dalla parola amore, comincia a sciogliersi come il burro. Davvero provi amore per me? Ma certo, cara. Il cara detto due volte in un minuto è micidiale. Ma allora perché non me lo dici mai? Oh, ma scusa Eva, io non lo faccio apposta. Io sono un po' così, smemorato. Ma ti assicuro che non ho mai smesso di amarti. La prossemica è già cambiata. Lui le cinge le braccia alla vita. Lei gli sta accarezzando i capelli. E i loro corpi si sfiorano. I cuori accelerano. I loro sessi si avvicinano, pronti per diventare tutt'uno. E... din don don. Porca vacca, chi è a quest'ora? Adamo, e chi vuoi che sia? E Dio, è qui per la cena, ricordi? Dio, come odio i parenti. Dai, fallo andare via. Allora, facciamo così. Io lo faccio entrare, però poi fingo un malore e con la scusa vado a dormire. E tu lo mandi via dicendo di tornare domani. Dai, va bene, dai, ci penso io. Ti amo, cucciolotta. Anche io ti amo, passerotto mio. Adamo apre la porta. Dio lo guarda in faccia, ma poi abbassa lo sguardo verso quella inequivocabile erezione. Adamo alza le spalle e Dio, sorridendo, gli dice: vabbè, ho capito, torno domani sera. Amatevi e dacci dentro, campione. Adamo chiude la porta e Dio, fermo sul pianerottolo, con una lacrima di commozione dice a se stesso, sospirando: ah, il mio bambino sta diventando un uomo. When I'm with you, it's paradise. Paradise. You kiss me once. Paradise, quello sì che era un bel film. Per tutti quelli che hanno la mia età, io sono della classe 78, questo film rappresenta un momento importante, cioè la rottura di un tabù, perché diciamo che noi avevamo sui 4-5 anni e ricordo benissimo quando è stato insomma mandato in onda il film, chiaramente su una televisione privata, perché ricordo che fu uno scandalo incredibile, ricordo le scenate di mia madre che cercava di farmi girare di colpo, però ormai era troppo tardi perché i due protagonisti si erano già avvinghiati nudi sulla spiaggia, quindi era una scena di sesso assolutamente terribile da vedere. Ecco, uniamoci fratelli in questo canto d'amore e di lode al Signore. Prima scambiamoci un segno di pace. Ho detto un segno di pace. Se per favore quei due in prima fila la smettono di pomiciare, possiamo continuare, grazie. E poi cantiamo insieme. Roma non fa la stupida stasera. Dammi una mano a fargli dire sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che puoi. È un friccico di luna tutta per noi. Era Monsignor Piotta in diretta dal Festival del Vaticano. Arrivederci alla prossima puntata di Rubrica Inutili dal Mondo. La prossima volta andremo in Giappone, dove un samurai ci insegnerà a tritare il prezzemolo senza affettarci le dita della mano. Bene, ragazzuoli, non so perché, ma sento che questa camminata di Radio Roll lungo le pagine delle Sacre Scritture lentamente si avvicini al termine, insomma. Come? Sono stato blasfemo? Bah, ma figuriamoci, io blasfemo, non mi permetterei mai. Sì, io sono cattiva. Piccola parabola del gatto Mao e dell'uccellino Chip. Da che parte stai? Chiese il gatto Mao all'uccellino Chip. Sto coi gatti, rispose Chip, e Mao lo mangiò in un sol boccone. Odiava i piccoli opportunisti pennuti. Padre, mi perdoni, perché ho molto peccato. Va bene, figliolo, ti perdono. Dimmi cosa hai fatto. Ecco, è difficile. Ma non preoccuparti, apri il tuo cuore. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, il Signore ti perdonerà. Va bene. Sono stato io a rubare la statua d'oro dalla chiesa. L'ho venduta a un rigattiere e con i ricavi ho costruito una casa per me e per tutta la mia famiglia. Pronto? Pronto, polizia? Ho trovato il ladro di statue. Se venite subito lo trovate ancora in ginocchio davanti al mio confessionale. Allora, come dicevo, io non... cari ascoltatori di Radio Rock, io non voglio essere blasfemo, anche perché non mi conviene, perché... Allora, mi è successa una roba un tempo fa. Allora, il lunedì 8 settembre 2008, perché avevo preso nota di questa cosa, per esempio ho scritto un articolo sul giornale online della mia associazione che riguarda una dichiarazione molto particolare fatta dal Papa. La mia posizione era di critica severa nei confronti di questa dichiarazione e chiaramente sono stato anche un po' satirico, ecco, passatemi il termine. Beh, da quel giorno mi è accaduto quanto segue. Si è rotta la macchina, si è scoperchiato il mio tetto e mi piove in casa, si è rotta la lavastoviglie allagando il soggiorno, si è rotta la caldaia, quindi non ho più acqua calda nel riscaldamento, la mia stessa banca ha rifiutato la richiesta di un qualsiasi finanziamento, anche di soli 500 euro. E poi il mio primo cliente di Shatsu, ecco, ero riuscito a fissare il primo appuntamento col primo cliente di Shatsu in un nuovo centro benessere. Beh, è proprio il primo appuntamento, sono rimasto a letto con la febbre. Quindi diciamo che eviterò di scrivere ulteriori critiche al pontefice. In nomine Patriae. Bizarro. rompi gli occhi del tradimento, la tua famiglia a me ti ho dato qui. E tutto il prete col dito in cielo che mi vaneggia della fedeltà. Vorrei parlare, fammi capire che questa forza non mi cambierà. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi disse sperando morì, non si può dire il cuore no, no, non te lo do l'anello, no, no, scordatelo. Mi sento freddo, paralizzato, praticamente incatenato. Ma la speranza è l'ultima a morire. Chi disse sperando morì, non si può dire il cuore no, no, non te lo do l'anello, no, no, scordatelo. Mi sento freddo, paralizzato, praticamente incatenato. Oh, eccoci qui, piccoli squinternati. Siamo giunti alla conclusione, questa volta davvero, del programma. Oh, ma che conclusione? Hai letto un telegramma? Ecco, io lo sapevo che ci mettevi nei guai. Ah, scusate, la regia mi dice che è arrivato un telegramma. Dunque, se mi fai vedere, per favore. Allora, telegramma da Monsignor Ruini. Allora, vediamo che dice. Egregio signor Ro, abbiamo appena ascoltato la sua puntata. È una cosa indegna, contro ogni moralità, contro la santa istituzione della Sacro Romana Chiesa. La preghiamo pertanto di mandare in onda subito una puntata riparatrice in cui si scusa col Santo Padre. Sì, monsignore, vuole davvero sapere cosa ne penso dal vostro punto di vista? Ecco qui. Allora, quindi, prima di chiudere, io mando un saluto caloroso agli amici di Radio Pazza, che trovate al blog radiopazza.blogspot.com. Poi lì nel loro blog troverete anche molti altri riferimenti, perché potete ascoltare le loro puntate a diversi link, ma in questo momento non me li ricordo, quindi vi basta il blog. Chiaramente per quanto riguarda invece Radio Ro, facciate sempre riferimento, godo quando so usare i congiuntivi al posto giusto. Facciate riferimento al blog liberopensieroberto.blogspot.com. Un saluto da regista. No, ma che saluto, ci ha messo tutti nei casini questa storia della religione. Un saluto da Ro, cioè il sottoscritto, e a risentirci alla prossima. Avete ascoltato in diretta dal Monte Sinai Radio Ro. Arrivederci alla prossima apparizione. alla prossima puntata. Buonanotte. Ciao!